chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Buona domenica. Ah, ci sei anche te. Ma di chi è questa voce? Di chi è questa voce? Di chi è questa voce? Di Alice Vaira. Alice, amore. La figlia di Angelo è qui con noi che ci accompagna. Alice nel paese delle meraviglie, perché Alice ha un'idea su come debba funzionare il mondo per renderlo meraviglioso, e per questo ha anche una sua canzone, perché lei vorrebbe comandare su questa roba qua. Sentitela, andiamo a comandare. Ecco, cioè ci fa anche da DJ, capito? Ce la canta pure, cantala. Tutti i valori, l'è salito l'andare a comandare. Mi spiace. L'è salito l'andare a comandare. Sono fa. Pancia, sono che fa. Voi non la potete vedere, ma dovreste essere qui a vedere come balla, no? come questo video che ha fatto 18 milioni di visualizzazioni. Non conoscevo questa canzone. Mia figlia di 9 anni mi ha detto: papà, c'è una canzone che si chiama Andiamo a comandare, me la metti? Ma papà, ma come sei indietro? Allora ricordiamo la nostra mail: chiedimi se sono felice @radio24.it, per tutti quelli che ci volessero scrivere. Noi diciamo anche mandateci, diteci se provate per esempio le ricette di Mara di Noia, le ricette di piatti e ciotole, che di cui parliamo sempre a fine trasmissione. Ora volevo chiedere ad Alice, che sei un'esperta un po' di cani, essendo figlia di tale padre, ma perché secondo te i cani si annusano il sedere? Per annusarsi? Ma perché noi umani non ci annusiamo il sedere? Ma ci hai mai fatto caso che i cani si annusano il sedere? Sì, ci ho fatto caso. Ti sei mai chiesta perché annusano il sedere? No, non me lo sono mai chiesta, però questa è una domanda che mi perché? Turba un po'. Ma soprattutto, tu perché quando vai a scuola con i tuoi compagni non vi annusate il sedere? Perché puzza, Rosita. Ma dai, puzza se uno non si lava. C'è anche chi si vanta di non lavarsi. Comunque, Perché dottor Vaira invece ci dica la verità, adesso a parte le battute, perché effettivamente è buffo. Io una volta dicevo ridendo che bello se il mondo fosse capovolto, no? Se i cani e gli animali si comportassero come noi, e noi quando ci presentiamo invece di darci la mano, salve, ci annusiamo il sedere. Ma allora è per salutarsi. Non è per salutarsi. Quindi bisogna effettivamente adesso comprendere che la zona attorno all'ano del cane riporta delle ghiandole anali sopracaudali e sottocaudali che sono responsabili della maggior parte delle informazioni sullo stato del cane. Quindi quando i cani tra di loro si annusano, effettivamente si stanno conoscendo. Ma è importante conoscere, anche per chi ha il cane, che non è l'unica zona in cui i cani si annusano, perché si annusano anche nella zona della pancia, nel solco intermammario, nella zona periorale, dove ci sono delle ghiandole che si chiamano appunto periorali, o le ghiandole ceruminose, quelle vicino alle orecchie, stavo spiegando. Quindi i cani ripetutamente si annusano, non soltanto quando si sono conosciuti, no, amori miei che siete qua davanti, quindi non soltanto quando si sono conosciuti, ma tra di loro, quando passano per esempio da un gioco ad una lite, ad una tensione, dicendo, fanno questi check di annusamento per capire come l'altro si sente, perché l'emozione ha un odore. Ecco, che domanda volevi fare tu, Alice? Io volevo dire che i cani non si annusano spesso il sedere, però. No? Non così spesso. No, qualche volta. Beh, quando si incontrano e non si conoscono, si annusano un po' ovunque. Per esempio, vicino al muso, sull'orecchio. Senti, ma siccome noi nella nostra trasmissione abbiamo detto spesso, ti ricordi quando facevamo i vari paralleli, no? Le 10 cose che danno fastidio al cane, che sono le stesse 10 cose che danno fastidio a noi. Abbiamo fatto quasi sempre un parallelo. E il parallelo sull'annusarsi il culo? Le parole. Ma non dire parolacce, non volevo dire una parola, c'hai ragione. Le parole, ne dette più di me, appunto. Vabbè. Allora, ci ha bacchettato una bambina di 9 anni. Il parallelo fra i cani che stanno usando il sedere, ci sorprenderà, o forse no, ma anche noi per sapere lo stato d'animo di quell'altro. Non ci annusiamo il sedere, ma l'odore tra esseri umani è fondamentale, ed è assolutamente il responsabile numero uno, per esempio, della scelta del partner. Certo. È per questo che si dice anche c'è chimica, cioè tante persone se si scelgono sulla base dell'aspetto fisico, dei valori e via dicendo, ma manca quella parte là, cioè la parte che non ti arriva in per via inconscia, purtroppo c'è qualcosa che non va con il partner, quindi pian piano possono succedere delle cose. Il profumo che si sceglie è importantissimo, l'odore che emana la pelle è importantissimo. Per me l'odore è la cosa più importante, ma lo è anche per mangiare. Pensa che se c'è un mangiare che ha un odore che a me non piace, è difficile, è praticamente impossibile che io mangi. Quindi, detto ciò, allora noi volevamo fare il nostro GR a quattro zampe, ma manca solo un minuto e quindi non lo possiamo fare. C'è una notizia molto importante di cui però vi vorremmo parlare, che riguarda... No, allora, GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Mi sono preso la libertà comandando di mandare comunque la sigla, anche se Rosita sì, c'è. Hai mandato la sigla, però dobbiamo sfangarla. Qual era un la notizia? Avanti, tra la poco. Notizia era gli animalisti contro l'Unibo. Bologna Today: 36 maiali uccisi per testare il farro. Quindi, cara Università di Bologna, tra poco facciamo i conti. Vergognatevi, vi cercheremo adesso, a parte gli scherzi, per fare un confronto con voi, perché adesso è costato 1.311.748.080 euro. E io pago. Il cofinanziamento dell'Unione Europea, che ha stanziato per prodotti biologici, come per lo scopo di mettere appunto farina integrale di farro e prodotti da forno arricchiti con ferro. Qual è il punto? Siccome non si può più fare sperimentazione animale per quanto riguarda i cosmetici, e spero che finisca anche per tutto ciò che riguarda i farmaci, perché non serve, è inutile, è una presa per il culo, tanto per rimanere in tema di sedere. Sì. Scusami tesoro mio, c'hai ragione, ma qui ci voleva. Allora adesso si stanno buttando sull'alimentazione, come se noi non sapessimo cosa è giusto mangiare, in realtà solo per mettere sulle etichette delle fregnacce, perché i nostri nonni avi sapevano cosa mangiare. Ma ne parleremo veramente cercando di coinvolgere Università di Bologna. A dopo. Verona Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh, sono contenta di fare adesso questa chiacchierata con due persone. Allora, Chiara, che ha fondato una onlus che si chiama Zampettando, sì, che troverete su Facebook, e ora vi spiegheremo che cosa fa. E siamo felicissimi di avere ai nostri microfoni anche il sindaco Franco Valenti, che è sindaco di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Paesi meravigliosi, fra l'altro. Beati voi, ma state in ciabatte adesso, no? Sì, cioè, ci state parlando, ma avete le ciabatte, la paperella, cioè, bravi. Fa caldo. Sindaco, c'è anche lei in linea? Sì, ci sono, sì, ma senza ciabatte. Ma senza ciabatte, giacca e cravatta, è il comune che sta lavorando. Allora, siamo felici di avervi con noi a fare questa chiacchierata, proprio perché così chi ci ascolta riesce a capire anche come ci si deve comportare, cosa si può fare per aiutare realtà difficili come quelle di cani, di cuccioli abbandonati in qualunque posto d'Italia. Adesso stiamo parlando del vostro comune. Chiara, ci racconti che cosa fai? Intanto c'hai 26 anni tu, no? Sì, intanto ciao a tutti. Io ho 26 anni e da circa 4 anni mi occupo di randagismo, si può dire, Santa Margherita Beni, che è l'Agrigentino. Sì. E la città in Sicilia è pressoché drammatica. Si cammina per strada e ci sono i cani. No, non ti sentiamo, pronto? Mi senti? Sì, Chiara, dovresti trovare un punto, perché a volte ti sentiamo a scatti, sì, sennò la gente a casa non capisce. Dicevi? Quindi, praticamente cammini per strada e trovi cani. Sì, ovunque. Ci sono i banchi di cani, perché comunque le femmine sono sempre in calore, non vengono sterilizzate. Sì. Quindi è un continuo generare figli. Io sono 4 anni che mi occupo di volontariato. L'anno scorso ho conosciuto Silvia, una ragazza di Milano, uh-huh. e abbiamo deciso di fondare un'associazione uh-huh. che abbiamo chiamato Zampettando. Uh-huh. Su Facebook la trovate, potete mettere mi piace sia alla pagina e far parte del gruppo. Il logo è quello con lo stemma stilizzato del cane e del gatto, con uh-huh. scritto sotto Zampettando. Ok. Senti, ma raccontaci della tua realtà, cioè tu ti trovi, sì. perché la gente dice vabbè ci sono sti branchi di cani, ok, ecco. ma va bene, lasciamoli là, invece... No, in realtà non è così, perché i branchi di cani sono cani totalmente magri, cani mm. che hanno leishmania, cani magari anche investiti, mm-hmm. perché al momento non c'è nessun ente che si occupa di questo, mm-hmm. la gente quando vede cani investiti o cuccioli strada chiama me, sì, non chiama i vizi, infatti me lo diceva o... ieri, oramai li è conosciuta, allora meno male che ci sei tu, però ovviamente da sola non sì, ce la fai, da sola, no, hai bisogno di un supporto. Sì, al momento in Oasi ho 25 cani mm-hmm. e vi sì. assicuro che è pesante per me da sola occuparti di 25 cani. Anche perché lei poverina ieri mi diceva, perché Chiara abbiamo chiacchierato uh-huh. ieri, che quando la chiamano lei non riesce a far finta di niente, anche esatto. se sono le 2 o le 3 del mattino, perché poi c'è i sensi di colpa. L'altro ieri sera io ero a casa e mi chiamano per 4 cuccioli strada, io già ne avevo 21 in Oasi, uh-huh. ho detto no, non vado. Alle 3 di notte mi sono alzata e sono andata a prendere cuccioli sì. e li ho portati in Oasi. Purtroppo il numero aumenta e la cosa grave è che comunque cominciano anche ad abbandonarmi i cuccioli in Oasi. Ma sì. Direttamente lì. Sì, ma la cosa grave è che comunque l'ultimo cucciolo che mi hanno lanciato si è fratturato la spalla. Senti Chiara, allora siccome abbiamo la fortuna di avere il sindaco disponibile a fare una chiacchiera con noi e con te, questo già dimostra che c'è voglia di trovare una soluzione, vero sindaco? E come no, è uno dei tanti problemi purtroppo che le comunità locali hanno, anche questo del randagismo. Io volevo però un po' rassicurare anche Chiara, che è una bellissima persona, una bella realtà che abbiamo. E questo mondo del volontariato di cui abbiamo oggi tanto bisogno nelle nostre comunità, perché tutti sappiamo purtroppo la difficoltà economica che i comuni oggi hanno per affrontare e garantire tutti i servizi. Però una buona notizia la volevo dare anche a Chiara, che dal 1 luglio questo servizio che abbiamo nei comuni di Santa Margherita, di Berice, Montevago uh-huh. e Sambuca conferito all'Unione dei Comuni, finalmente dopo 2 gare deserte, ora finalmente dicono che la gara è stata aggiudicata uh-huh. e dal 1 luglio una ditta che si chiama ditta Ciupei dovrebbe assicurare questo servizio. Però ma il servizio di cosa? Che non... il servizio del randagismo, nel senso di avere una ditta a cui possiamo rivolgerci per nei casi di appunto, per catturare cani pericolosi, per provvedere alla sterilizzazione, però tutto questo non anzi si sposa bene con l'iniziativa di Chiara, perché noi dobbiamo sempre di più augurarci che ci sia tanta gente, tanti giovani che ci diano una mano, perché mentre diciamo la ditta Ciupei per provvedere alla cattura, all'eventuale sterilizzazione, penso che il vero problema del randagismo è proprio la mancanza di sterilizzazione. L'unico modo per risolvere. È l'unico modo per risolvere, Chiara, però non abbiamo bisogno invece di gente che come Chiara, che veramente... e ci dà una mano, che accoglie questi cani, ma soprattutto poi che cerca questi cani una e assicura una condizione di vita non da canile ma di persone. Ovviamente che ovviamente questo lo possiamo fare con l'aiuto del comune che amorevolmente allora, lo accolgono. Sentiamo Chiara, tu qual è l'aiuto che tu di cui tu hai bisogno? Allora, intanto in Oasi noi abbiamo bisogno urgentemente di telecamere, perché gli abbandoni stanno aumentando e abbiamo bisogno di telecamere. Se perché viene della gente comune, lì e vi lascia il cane sì, lì davanti. Sì, li lancia. E tra l'altro li mette in pericolo, perché io ho anche cani adulti, quindi lanciano i cani così. Dopodiché anche una cosa anche banale potrebbe essere... Chiara, non ti sentiamo, pronto. Ehi, sono ferma. Ecco. No, perché dopodiché? Sì. Dopodiché servirebbe che il comune... ogni tot, tipo ogni settimana, mandasse l'acqua, perché noi abbiamo comprato dei grandi recipienti e paghiamo per far arrivare l'acqua. se comune può assumersi anche questa spesa, diciamo. E poi comunque donazioni, perché noi non ce la facciamo più, i soldi non bastano mai. Una sterilizzazione costa 200 euro, i vaccini costano 25 euro, per 25 cani sono tanti soldi. Quindi noi un appello a chi ci sta ascoltando lo facciamo, quindi se volete contribuire facendo donazioni all'associazione Zampettando, appunto, che vede come volontario principale, come presidente la Chiara, potete farlo. La contattate su Facebook mettendo appunto su Facebook Zampettando e ovviamente perché ci sono più associazioni Zampettando, il nostro è quello con il logo nero con il cane e il gatto stilizzato e scritto Zampetta. Sì, sindaco, senta, volevo sapere, è possibile riuscire a far arrivare almeno l'acqua lì all'Oasi? Sì, no, noi faremo la nostra parte, perché è nostro compito, è nostro dovere proprio aiutare chi ci vuole dare una mano, e parlo proprio del mondo del volontariato in generale, per cui da questo punto di vista Chiara può stare tranquilla ora che abbiamo lo strumento che è appunto che è l'associazione, che ci permette anche di poter veicolare per quel poco che si può anche delle risorse pubbliche. Con Chiara noi ci sediamo e vediamo un po' di organizzarci per dare il supporto possibile a questa bella, bellissima iniziativa. Da parte nostra c'è la voglia di collaborare al massimo, di fare tutto ciò che è possibile, perché questi giovani vanno certamente incoraggiati e supportati. Guardi, sindaco, allora noi siamo a disposizione vostra, nel senso che siamo felici che con questo programma che stiamo facendo, Chiedimi se sono felice, io e Angelo da un anno a questa parte abbiamo parlato già con altri sindaci che si erano impegnati, che poi hanno risolto delle cose. C'era il sindaco di Cerignola, per esempio, che con un altro volontario aveva una condizione in un canile lager dove addirittura mangiavano i cuccioli dei cani. Io le dico questo perché se ci si unisce, se si fa una sorta di catena di solidarietà, fra l'altro sul settimanale Gente di questa settimana leggevo che a Bari la solidarietà è virale, cioè c'è stata questa iniziativa proprio di mettersi assieme per combattere le difficoltà, per combattere la povertà, al punto che ci sono medici che si mettono a disposizione per le famiglie più povere a fare l'assistenza del dentista gratis. Cioè, se si creasse questa rete di solidarietà in qualunque posto, da nord a sud, a est a ovest, allora tutti ne beneficiamo un po', perché se stanno, capito? Si contagia nel bene. Sì. Devo dire che da questo punto di vista mi sento un sindaco tra virgolette fortunato, perché nella mia realtà tante di queste cose si muovono e ci sono. Lei parlava della salute, noi abbiamo qui una casa della salute gestita da volontari e riusciamo a sopperire anche lì laddove, diciamo, ormai la pubblica amministrazione non ce la fa più. Per cui da questo punto di vista, le dicevo, Santa Maria di Belice, questo paese nella Valle del Belice, di 7.000 abitanti, ritengo che è un paese che ci crede e che si scommette giorno dopo giorno. Ma c'è una cosa che a me non è chiara, che prima non ho capito. No? C'è stato un bando di concorso, una gara d'appalto, giusto? Sì. Questo è un servizio che i comuni dell'Unione dei Comuni avevano affidato appunto all'Unione dei Comuni, che è questa struttura sovracomunale che gestisce servizi nell'ottica appunto di economizzare, di mettere insieme più comuni e risparmiare. E questo servizio poi si è interrotto qualche anno fa e i comuni avevano nuovamente preso in carico il problema del randagismo. No, perché ecco, prima citavamo Cerignola, che cosa è successo lì? C'è stata una gara d'appalto, un bando di concorso, l'ha vinta questa associazione che si è presa poi cura di questo canile. A me veniva in mente perché Chiara non avesse partecipato al bando di concorso, magari non c'entra nulla. Ma è un bando per i canili. No, un bando per i canili, perché deve essere un canile con tutto ciò che il canile, diciamo. Abbiamo un'oasi invece. Va bene. Chiara ospita i cani, se ho capito, e penso di aver capito, ospita i cani di cura in attesa che questi cani poi riescano a trovare un'adozione. Questo è il modo più bello, penso. Attenzione, che questo è quello che dovrebbe fare qualsiasi canile. Sì, esatto. Perché il problema principale, uno dei problemi grossi che affligge l'Italia, è il fatto che ci siano delle aziende o delle associazioni associazioni, una volta c'erano i privati, ma oggi non ci possono più essere i privati, che prendono i canili e si fanno dare dei soldi dal comune, così come è lecito, no, per ogni cane. E poi, no, giusto per far capire anche a chi ci ascolta, dico anche un dato, mi pare, se no, e non vorrei sbagliarmi, che oltre, diciamo, le spese iniziali di cattura, microchippatura, sì, vaccinazione, sterilizzazione, poi mi pare che il comune sopporta una spesa per cane intorno alle 4 euro a cane. Eh sì, al giorno, ma sì, infatti è proprio questo il punto, ci sono molte persone dentro questa cosa qua che ne fanno un business, quindi esatto, cosa fanno? Non comunicano i decessi, cercano di non far adottare i cani, perché più cani in canile significa che loro ci guadagnano di più. Se il comune mi dà 4 euro, allora, io spendo pochissimo, no, per dar da mangiare a questi cani, e quindi poi tutto il resto invece me lo tengo per me. Questo è quello che affligge oggi molte realtà locali. Quindi Sindaco, io ve lo porto lì. Facciamo un attimo una pausa, che dobbiamo dare la linea alla pubblicità, e continuiamo la chiacchiera, le va fra un secondo? Problemi. Ok, grazie. Minuti. Okay. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E stavamo parlando con Chiara, che ha questa, fondato questa onlus Zampettando, e con il sindaco Franco Valenti di Santa Margherita di Belice. Di Belice o Belice? Come si dice? Belice. Allora, stavamo parlando. Allora, la cosa che allora, intanto noi siamo a disposizione, verremo magari appena saremo giù al sud, io, Angelo, che giriamo l'Italia, veniamo ad Agrigento. Io la conosco, ci sono stata, meravigliosa, tutta bella l'Italia. È una bella zona, noi vi aspettiamo e faccio pure promozione così. Esatto. È la terra del gatto Paolo. Però io sono stata un po' di anni fa con la Domenica del Villaggio, quindi voglio dire, io l'Italia ho visto 126 paesi d'Italia, quindi voglio dire, posso dire di conoscere l'Italia abbastanza bene. No, sindaco, ci teniamo, perché Angelo poi seguiamo personalmente, veniamo a fare i giri, perché la mia paura è quando si danno ad appalti privati che i cani sono considerati, che vengano considerati roba di serie B, cioè vincono un appalto, il comune si impegna dando dei soldi, però in realtà ci vogliono persone che considerano la situazione da un punto di vista etico, cioè non si devono parcheggiare cani nei canili e mollarli chiusi là, e perché poi quello che diceva Angelo, purtroppo ci sono realtà, purtroppo in tutta Italia, non è solamente una questione di nord e sud, ci sono situazioni migliori e peggiori abbastanza, sì, ovunque. Ma sai, c'è un evidente conflitto di interessi in cui una persona che ha preso l'appalto, a lui conviene che i cani rimangano in canile, non, esatto, vuole affidarli, e questo ovviamente che cosa comporta? Che lì a direzione di queste associazioni ci debbano essere non soltanto delle organizzazioni efficienti, ma anche eticamente corrette, no? Quindi io mi auguro che adesso Santa Margherita, quindi se ha bisogno di consigli, di una mano, di fare un'altra chiacchiera, di utilizzare un mezzo come la radio per sensibilizzare la gente, sindaco, noi siamo a disposizione. Grazie, gentilissimo. Chiara, noi con Chiara oramai è diventata una nostra parente, avremo un filo diretto, perché la vogliamo aiutare, perché lo spirito di Chiara è quello giusto, cioè è proprio uno spirito umanitario che ci vuole. Non bisogna vivere lo spirito caninario, esatto, non bisogna vivere il canile come una fonte di business, e questo è il punto. No, ma guarda, può anche essere, il punto è che i cani debbano non essere solo, al centro, certo. I cani debbano essere al centro, è legittimo, ma che una persona, ma cosa basilare, che i cani devono partire. Noi in 4 anni abbiamo fatto partire più di 300 cani, tutte adozioni super controllate, compresa. Esatto, quindi sindaco, lei ha un parametro, lei ha un parametro forte. Cioè, io ho la fortuna di avere chiaro. No, esatto, dico, ha il parametro forte per vedere se il canile viene sì, gestito bene. Ed è in ogni anno quanti cani entrano e quanti cani escono da lì, esatto, per le adozioni. Perché così lei capisce perché anche se le adozioni sono poche, lei sa che questa gente non sta facendo bene il suo lavoro. E vi prende i soldi al comune, che poi non vengono gestiti come andrebbero. Io vorrei chiedere al sindaco se in qualche modo può fare in modo che io entri nel canile. Guardi, sindaco, io adesso... Guarda, Chiara, come dicevo, dal 1° luglio riparte il servizio, per cui penso che andiamo insieme. Guardi, così... sindaco, io non voglio, glielo dico col cuore, non mi conosce personalmente, ma non mi espongo se non credo e non conosco le persone. In Chiara c'è una persona molto attenta e molto onesta e molto sensibile, che ha anche... Vi fa risparmiare soldi. Vi fa risparmiare soldi, no, e soprattutto se... Ma che deve fare il comune. Sì, cioè, voglio dire, quindi potete tenere lei come punto di riferimento per capire qual è il movimento giusto, ma eventualmente per i canili che avete, per le situazioni, cioè lei sicuramente lo fa pensando veramente al bene del comune, al bene dell'animale, al bene di tutto quello che sta intorno a un'organizzazione di questo tipo, quindi ce ne fossero di Chiara. L'altra cosa che io un po' adesso lancio, ma secondo me bisogna dedicare una puntata a questa roba qua, è che il randagismo noi lo viviamo spesso come un problema, ma il randagismo attorno ai villaggi umani è sempre esistito da migliaia di anni ed è stato nel tempo addirittura una risorsa, perché i cani nascono come lupi spazzini. Allora, molti cani, è meglio, come succede in alcuni comuni, ci sono i cani di quartiere, no? Cioè il comune fa la vaccinazione, l'ASL fa la vaccinazione, il cane viene comunque lasciato libero, se ne occupano un pochino tutti e fa una vita da libero. Invece che, Magari viene sterilizzato, esattamente, invece di essere messo in un canile, no? Quindi insomma, questo adesso ve lo lancio non soltanto a voi due, sindaco, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cioè questo tema, che è quello del randagismo, andrebbe preso e ribaltato come un calzino, perché farebbe risparmiare soldi ai comuni e diventerebbe una risorsa, perché il randagismo può essere addirittura una risorsa invece che un problema. Spero. Detto questo, grazie sindaco di essere stato disponibile. Grazie a voi. Rosita, posso dire l'ultima cosa? Sì, certo. No, volevo dire al sindaco che in questi 4 anni mi sono sentita veramente sola. Andare a dormire con i pensieri di come pagare il veterinario, come portare avanti l'oasi. E spero che davvero da oggi possa esserci una forte collaborazione. Oggi abbiamo uno strumento che ci permette di sederci, di discutere e forse, come dicevo anche, di poter pensare a fare veicolare delle risorse pubbliche all'associazione. Da privata tutto questo, diciamo, era difficile se non impossibile. Certo, adesso c'è il sindaco. Abbiamo lo strumento. C'è il sindaco che è disponibile a trovare una soluzione assieme. Se volete, come diciamo sempre noi in radio, l'unione fa la forza. Quindi, se avete bisogno, volete anche tu, Chiara, vuoi scambiare opinioni con il canile, quello di Cerignola, e anche il sindaco, capire come un comune è riuscito ad aiutare. Tanto, insomma, siamo qui per capire tutti quali sono le situazioni migliori. Magari chi ha iniziato prima sa già quali sono le cose giuste per non perdere tempo, quindi noi siamo a disposizione vostra anche per mettervi in connessione. Per me va benissimo. Va bene? Ok, grazie. Grazie entrambi. E vi aspettiamo in questo paesino della Valle del Brice. Volentieri, grazie. Ciao Chiara, per qualunque cosa Chiara chiamaci, anche lei grazie sindaco se avete bisogno. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Speriamo, dai. Cioè, si vede che c'è un problema da gestire, no? Sì. Che cominciano soltanto adesso, però mi piace molto il fatto che si mettono così tanto a disposizione, no? Sì, anche il sindaco che è stato aprire questo dialogo, no? Tra i volontari, le persone realmente appassionate sul territorio e le istituzioni, in questo caso abbiamo avuto il sindaco. Senti, tu dicevi, parlavi appunto prima del randagismo, sai che però non è facile riuscire a distinguere quando, vabbè, io forse adesso perché vivo un po' con te riesco a intuire e a capire un po' le espressioni dei cani quando li vedo in giro, randaggi. Poi ci sono zone dove non ne vedi e il sospetto è che magari li pigliano e li ammazzano, quindi non ne vedi in giro. Sì. Poi ci sono zone dove ne vedi troppo, li vedi denutriti, però poi ci sono quelli che li vedi, che sono lì pacifici, che si fanno la loro vita, che sono denutriti. Soprattutto io ce l'ho, lì c'è il sospiro. Ha sospirato, no? La nostra opinionista. Adesso la nostra opinionista ci dà un parere, però il punto, poco fa ne parlavo appunto con Chiara, state attenti, miei cari volontari, con tutto l'amore che voi provate, dovete acquisire anche conoscenza, perché io vedo delle realtà drammatiche fatte da animalisti che non si occupano del loro cane in canile qui per esempio al nord, e invece mi vanno a recuperare il cane dal sud semiselvatico che ha paura delle persone, che starebbe esattamente bene lì dov'è, perché non va toccato, va tutelato l'ambiente, va lasciato nel suo branco, e invece questi cosa fanno? Lo prendono e lo portano su, invece di dare i loro cani dal canile da qui gli fanno fare un viaggio del genere, lo mettono in una famiglia dove quel cane vivrà terrorizzato a vita. Lì non c'è lavoro da fare, la rieducazione, sì, possiamo aiutarli, però sono cani che vivono poi una vita drammatica. Sì, perché c'è la, a volte c'è la presunzione di pensare che solo l'uomo sa dov'è che è il posto giusto di un cane o di un animale, no? Come quando dicono... Questa frase magica: mettiamolo in sicurezza, mettiamolo in... quel cane sta bene là dov'è. Invece, per quanto riguarda i randagi, cioè che sono cani affabili, che sono abituati alle persone, allora lì sì che posso cercare la famiglia, ma bisogna cercare di trovare la famiglia senza passare dal canile, perché purtroppo alcuni cani entrano in canile e in canile si spengono, per loro diventa il girone di un inferno. Soprattutto se poi ci sono quei canili lì, come dicevamo prima, che in realtà raffano i soldi del comune, tipo il comune ti dà 2, 3 euro, 4 euro al giorno, gli danno da mangiare la merda, gli danno da... le schifezze non anche si cura, non li puliscono, non ne fanno uscire di cani perché si vogliono tenere i cani lì dentro, e ecco che il canile diventa un canile lagra alla faccia di questi stronzi. Certo. Ora, adesso che abbiamo parlato di... che abbiamo chiuso questo argomento dei canili, tu ci avevi una notizia importante di cui sì, ho letto parlare, sulla no? Repubblica, è un articolo molto interessante, il titolo dell'articolo è: il cane non è un figlio, giudice bacchetta coppia che divorzia, criticato il lessico da relazione genitoriale. In pratica, che cosa è successo? Una coppia si stava separando, così come capita tante volte. In Italia. Così come capita tante volte, dovevano decidere chi doveva dar da mangiare, chi si accollava alle spese del veterinario piuttosto che del cibo. Ma perché facevano una scarica a barile o perché se litigavano? Se lo litigavano un po' tra di loro, perché tutti e due si erano affezionati e via dicendo. Io voglio ricordare da questo punto di vista che al primo posto va messo il benessere del cane. Come un bambino. Sì, però non è... cioè, la relazione che noi abbiamo con un cane non è esattamente come quella di un bambino in crescita. Cioè il cane non ha necessità di avere tutte e due le figure genitoriali che vadano a trovare il bambino, cioè questa è più una cosa nostra, più siamo noi ad avere questa vena qui. Quindi bisognerebbe capire chi il cane oggettivamente è più affezionato della coppia, e quello se lo deve tenere. Esattamente, fare le visite ogni weekend eccetera eccetera col cane che viene sballottato, prima a casa di uno poi la casa nuova dell'altro, non gli fa così bene. Questo in linea generale. Poi ovviamente affrontate con un educatore cinofilo impronta cognitivo-relazionale la cosa, in modo da capire che cosa è meglio per il cane. Soltanto dopo dovete decidere. E il giudice in questo caso? Allora, il giudice si è arrabbiato, cioè ha bacchettato la coppia, perché dice: non mi potete nella vostra relazione in cui chiedete questa cosa qua parlare di relazione genitoriale. L'ha paragonata addirittura una caduta di stile culturale. Io non sono d'accordo con questo giudice, perché questo giudice ignora delle cose. Di relazione genitoriale si tratta, cioè oggi la scienza ci dice che il modo in cui noi stringiamo alleanza con il cane è una relazione di tipo genitoriale. Addirittura nel nostro cervello si attivano dei set neurali che si attivano quando noi abbiamo a che fare con i bambini. Quindi di relazione genitoriale si tratta, ma siamo sempre lì. Bisogna accettare però che c'è una relazione genitoriale che comporta delle cose, come quella che si viene a formare nei confronti di un bambino, e una relazione genitoriale che è quella nei confronti del cane. Sono due relazioni genitoriali entrambe, ma ovviamente devono essere splittate in modo diverso. Qua si dice: siccome non è una persona, è una caduta di stile. Ma anche qui sappiamo che ci sbagliamo, perché come ci dicono le etologie cognitive, come diverse sentenze nel mondo stanno dichiarando, molti animali, e il cane fra queste, sono persone non umane. Quindi di persona si tratta, certo, cioè di un individuo che ha una personalità, che ha una vita emozionale, cognitiva molto ricca, molto complessa. Quindi non è vero che non sono delle persone. Quindi il punto è come gestire correttamente la cosa, non è una caduta di stile, semmai dal mio punto di vista è un'evoluzione culturale più che una caduta. Sono pienamente d'accordo. Il fatto è che questo giudice, secondo me, non sa fino in fondo i bisogni di un animale, di un cane in questo caso, quindi lui si è arrabattato con le leggi e con quello che era. Bene, grazie anche di questa notizia della Repubblica, e facciamo un attimo un break e ci troviamo subito dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E come ogni domenica che si rispetti, anche questa domenica ci abbiamo i consigli per un pranzo, una cena, un qualunque cosa, sembra la nostra Mara di Noia. Su base vegetale, nella nostra rubrica Piatti e Ciotole. Piatti e Ciotole. Buongiorno Mara. buongiorno a tutti. Ciao Mara. Ciao. Hey. Siamo qui sempre Alice che vorrebbe sapere cosa vuoi mangiare. Cosa vuoi che ti cucini adesso, Mara? Pizza. Pizza. Ma è monotematica tua figlia, cioè, però. Ma l'avete tirata su a pizza? Devo dire anche che anche io ho un debole per la pizza. Devo dire che è una cosa. Sì. No, io no. Pensa, a meno che non sia quella napoletana, bella grossa, unta, bella croccante. Dai, facciamoci dare delle alternative. Fai quella, così se la mangia. Ecco, facciamoci dare delle alternative da Mara di Noia. Va su. Allora, oggi vi ho preparato il tempè grigliato e fagiolini. Voi sapete che io amo il tempè. E quindi ve lo propongo in una ricetta nuova. Vi occorrono 250 g di tempè al naturale, un cucchiaio di salsa di soia, 3 cucchiai di sciroppo d'acero, un cucchiaino di aceto di riso, 200 g di fagiolini, un cucchiaio di semi di sesamo nero e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Cosa dovete fare? Tagliare il tempè in 4 fette e poi tagliarle ulteriormente a metà, quindi verranno delle fette sottili, mescolare la salsa di soia, lo sciroppo d'acero e fare marinare il tempè per 30 minuti in questo liquido. Cuocere i fagiolini in acqua bollente per 5 minuti finché saranno morbidi, ma devono mantenere la croccantezza. Nel frattempo scaldare il grill e passare il tempè per 3 minuti per lato, spennellandolo con questa marinata. Infine scolare i fagiolini, unire i semi di sesamo, irrorare con un filo d'olio e un pizzichino di sale. Semplicemente servite il tempè sul letto di fagiolini. Per la ciotola invece potete accompagnare con e mescolare con del riso soffiato, in modo tale da avere un piatto assolutamente completo. No, ma io vorrei chiedere a casa se c'è qualcuno che sta mettendo in pratica questo, perché noi andiamo in onda adesso che è l'ora di pranzo, no? Sì, sì. Allora magari dobbiamo anche far intervenire prima la Mara, così che la gente, capito, abbia il tempo per... deve anche andare a fare la spesa. No, però, ma davvero scriveteci, fateci sapere come sono queste ricette, come le avete provate, via dicendo, perché mi sembra alta cucina qua irrorare con la cosa, no, marinare, mischiare lo sciroppo. No, ma dico alta cucina nel senso che è buona, mica è difficile da fare, sì, come no, sta spiegando. È buona, ma sono proprio semplici. Le ricette che io propongo sempre a tutti sono ricette con pochi ingredienti, semplici, perché sennò non si riesce a cucinare. Ma infatti quando io ti sento parlare dico, ma perché non ci ho pensato io prima? È semplice perché non hai, anche quando senti suonare Mozart, perché non hai detto, ma perché non ci ho pensato no, prima perché, io? E lo so, però, ma non è quello, è che tu quando senti la Mara spiegare queste cose, dici, cazzo, effettivamente che bella idea. Certo, però è la portata di tutti. La cosa che mi ha sorpreso qui è stato lo sciroppo d'acero mischiato con l'aceto di cosa che era? L'aceto di riso, no? No, la salsa di soia. Salsa di soia, aceto di riso e sciroppo d'acero. Le marinate sono buone perché mescolano tanti sapori. Quindi è questo che proprio... Senti, per la mia ignoranza, il tempè di preciso che cosa sarebbe? Il tempè è un prodotto a base di soia fermentata. Quindi un prodotto che ha origine orientale, in Indocina, per la precisione. Ed è ricchissimo di proteine e di vitamine del gruppo B, che sono quelle famose vitamine di cui tutti si preoccupano quando smettono di mangiare cibo animale. L'Oriente ha una tradizione di cibi fermentati, perché soprattutto il Giappone è stato vegetariano stretto per 8 secoli, che sono un'infinità di tempo. Accidenti. Quindi hanno sviluppato una cultura veramente incredibile riguardo agli alimenti fermentati. Tu mi stai dando una notizia che io non sapevo, cioè il Giappone è stato vegetariano stretto per 8 secoli. Per 8 secoli. Cioè non ha mangiato carne e pesce. Allora, non solo non ha mangiato carne e pesce, ma per legge questo imperatore, siccome era diventato vegetariano stretto lui, lo ha imposto a tutti. Fantastico. E nessuno, neanche nella sua abitazione, poteva mangiare un derivato animale. Voglio l'imperatore. Ce ne fossero di imperatori così, esatto. Andiamo a comandare. Folle, Alice, tu però... hai un pizzino per me, vedo. Passamelo. Cos'è che hai scritto lì sopra? Vediamo. Voglio. Vediamo. Ha un pizzino, no? Qua c'è la mafia. Voglio. No, siamo barisi, quindi. Allora, papi, voglio parlare anche io. E allora, di qualcosa. Ecco, questo, questo la tua opportunità l'hai avuta, purtroppo l'hai persa. Senti Mara, comunque ricordiamo anche sempre che questo si chiama piatti e ciotole perché questa pappa va bene sia per noi umani che per i nostri cani e gatti. Questa è la meraviglia di una pappa condivisa. Stiamo organizzando cose turche io e la Mara assieme, brava. A breve sui nostri schermi e chi si ferma più. Esatto, cioè falafel, vabbè. Sì, allora, grazie Mara Di Noia per averci tenuto compagnia e averci illustrato ancora oggi come si irrora e si fa sobbollire e si mischiano le cose più buone del mondo. A domenica prossima, Mara. Grazie, grazie a voi, buona domenica. Grazie ciao. Anche a te, ciao. Ciao. E che poi vedi, viene questa acquolina. Allora, che cosa ci dici tu? Ti è venuta l'acquolina in bocca, Alice? No. E cosa ti è venuta? Cioè, se avesse detto la preparazione della pizza, invece... L'acquolina sì. Se avesse portato qui due o tre würstel? Sì, l'acquolina sì. Vedi, no. Ma no, ma i würstel, madonna, amore, ma cioè, ecco qua non sei più mia figlia, i würstel, no, dai. I würstel no. I würstel mi aveva fatto sperimentare una mia amica. Ah, bell'esperimento, ecco, sono pericolose le amiche che fanno sperimentare le cose. Preferivo una canna. Due. Due, allora. Sì, preferivo una canna da pesca, ma per piacere che siamo qui in compagnia di un minore. Ma porca miseria, è un attimo una scivolata, vedi Carmelo? È uno si distrae un attimo, capisci? Allora, tu vuoi comandare, cosa vuoi comandare, Alice? Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Alice, le è salito l'andare a comandare. Vai, vai. No, oh, tacchissimo. Balla almeno. E ogni volta che mi parte niente. È sempre imbarazzante. Ha detto papi voglio parlare, però poi si Alice, vai, vai, vai. Papi voglio parlare, che vuoi dire? Falla cantare. Intanto chiudiamo. Noi vi ricordiamo su questo sfondo, sottofondo musicale, vi ricordiamo se ci volete scrivere, scrivete a chiedimi se sono felice @radio24.it. Ascoltate i nostri podcast sulla sezione podcast e tra l'altro visto che noi vogliamo che voi siate felici, comanderemo noi insieme ad Alice per un mondo migliore. E diteci se avete fatto o qualcuno ha già sperimentato qualche ricetta di Mara Di Noia, di nostre piatti e ciotole. Vi lasciamo con questo solo un attimo della nostra bimba, vai. Faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, faccio acqua nel locale, andiamo a comandare, faccio acqua minerale. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Chiedimi se sono felice @radio24.it. Beh, mi ha fatto anche DJ. Allora salutiamo tutti. Ci vediamo domenica prossima, ore 12. A Chiedimi se sono felice su Radio 24 con Rosita Celentano e Angelo Baia. Ciao, ciao Alice. Ciao.